title of today's Satsang Dhamma talk is Vedana Nupassana Satipatthana Part 2. And this will be a continuation of yesterday's talk. Yesterday we spoke on Vedana Nupassana Satipatthana, mindful contemplation of feelings in general. And we discussed some aspects connected to the contemplation of pleasant feelings. Allora, l'argomento di questa sera è Vedana Nupassana Satipatthana, parte seconda. Ieri abbiamo parlato di questa contemplazione delle sensazioni in maniera un po' generale e soprattutto abbiamo parlato della contemplazione in termini di sensazioni piacevoli. And today we shall explore in detail aspects or points connected with the contemplation of unpleasant feelings as well as neutral feelings. Invece questa sera noi tratteremo della contemplazione delle sensazioni spiacevoli e neutre. So just to recall, when one is feeling an unpleasant worldly or unworldly feeling, then one knows that one is feeling such an unpleasant feeling. Allora, solo per riprendere il discorso di ieri, quando uno ha l'esperienza di una sensazione spiacevole mondana, sa che sta avendo l'esperienza di una sensazione spiacevole mondana. E lo stesso vale per una sensazione spiacevole non mondana. Sì. And so, when feeling of worldly or unworldly neutral feeling, one knows that one is feeling a worldly or unworldly neutral feeling. E quando uno prova una sensazione neutra, mondana o non mondana, uno è consapevole del fatto che sta osservando o sta provando una sensazione neutra, mondana o non mondana, o ordinaria e non ordinaria. So, in the case of unpleasant feelings, when we follow the Mahasi approach to Satipatthana meditation, whenever an unpleasant feeling has occurred, then we label it as such, namely as unpleasant feeling, and then we observe it and we try to know its nature. Allora, seguendo le istruzioni o l'approccio della tradizione Mahasi di Satipatthana, allora quando sorge una sensazione spiacevole, prima la etichettiamo e poi cerchiamo di conoscerla nella sua vera natura, così com'è. Now, when it comes to unpleasant feelings, we need to distinguish between bodily unpleasant feelings and mental unpleasant feelings. Allora, occorre distinguere tra le sensazioni spiacevoli fisiche o del corpo e quelle mentali. And so, those related to the body are known as dukkha vedana, whereas those related to the mind are known as dhammanasa, displeasure. Allora, quelle riferite al corpo sono chiamate dukkha vedana, invece quelle riferite alla mente sono dhammanasa, cioè cose non piacevoli. And so, just to stress this point a little bit, feelings can occur with regard to any of the objects connected with the five aggregates. So feelings can arise with regard to a bodily formation, they can arise with regard to a perception, and then with regard to a mental formation, and with regard to consciousness. Quindi le sensazioni che sorgono possono essere collegate, possono essere relative a uno qualsiasi dei cinque aggregati, quindi possono essere collegate con il corpo, con la percezione, con gli stati mentali, con la coscienza. Now, in the case of an unpleasant bodily feeling, dukkha vedana, its characteristic is as experiencing an undesirable tangible object. Quindi per quanto riguarda dukkha vedana, cioè la sensazione spiacevole nel corpo, allora questo può essere definito come avere esperienza di una cosa non desiderabile e tangibile. Undesirable tangible. Right? Tangible, undesirable tangible object. No. When it comes to the function of this dukkha vedana, let us think of our own meditation practice. Let's think of experiencing a pain for maybe an intense pain for maybe 10 minutes. Allora, per quanto riguarda la funzione di questo dukkha vedana, pensiamo alla nostra pratica meditativa. Immaginiamo di dover provare un dolore intenso per, mettiamo, 10 minuti. We have the mental strength to face it, and so we're doing quite okay. However, as the pain intensifies further and is also lasting longer, gradually we lose the mental strength. Inizialmente abbiamo una certa forza mentale per affrontarlo, però man mano che il dolore dura più a lungo e si intensifica, allora si indebolisce anche la nostra forza mentale. And so with this then, the other associated mental states get withered or weakened. Allora, di conseguenza, anche gli altri stati mentali che accompagnano questa osservazione si indeboliscono, è come se si prosciugassero. And so, this then is the function of this dukkha vedana. E questa quindi è la funzione di dukkha vedana. And so, the manifestation of dukkha vedana is as bodily affliction. E la sua manifestazione come afflizione del corpo. And its proximate cause is given as the body faculty itself. Allora la sua causa prossima è data come la facoltà fisica del corpo stessa. La facoltà stessa del corpo. Now, in the case of dominus, displeasure, so a feeling in connection with some mental object, its characteristic is experiencing an undesirable object. And now the term tangible is not included anymore, because everything comes then under this. E invece per quanto riguarda domanassa, cioè le sensazioni spiacevoli mentali, allora queste riguardano il fare esperienza di un qualsiasi oggetto non desiderabile, però in questo caso non si aggiunge l'aggettivo tangibile, perché qualsiasi oggetto non desiderabile rientra in questa categoria. And its function is of partaking of the undesirable aspect of the object. Quindi la sua funzione è di prendere parte del partaking of the undesirable aspect, dell'aspetto non desiderabile dell'oggetto. Sì. And the manifestation is as mental affliction. E la sua manifestazione è l'afflizione mentale. So this much in terms of just the definition for these two. Ecco, e questo riguarda la definizione di questi due tipi di oggetti spiacevoli. Now, when we undertake satipatthana meditation, then sooner or later we may come across a period of practice where we encounter or have to deal with plenty of physical pains and also plenty of difficult mental states accompanied by an unpleasant feeling. Allora, quando intraprendiamo la pratica della meditazione satipattana, noi potremo incontrare dei periodi, delle fasi in cui dovremo affrontare una quantità di dolori fisici, così come anche stati mentali difficili che sono accompagnati con queste sensazioni spiacevoli. And so, then having to face these unpleasant feelings over and over again, the thoughts might cross the mind, what causes these unpleasant feelings? have I done anything wrong in the past that now I have to suffer the consequences in this way? Allora, quando sorgono ripetutamente queste sensazioni spiacevoli e le si osservano, allora potrebbe sorgere il pensiero nella nostra mente: ma cos'è che causa tutte queste sensazioni spiacevoli? Cosa ho fatto io nella mia vita precedente per meritarmi questo, cioè per avere questo risultato? Have I hurt anyone in the past that now I have to put up with all these karmic results? Ho fatto del male a qualcuno in passato per giustificare il fatto che adesso devo rispondere di tutti questi risultati karmici? So, this is an interesting point and we shall explore it in a moment or two. Questo è un punto interessante e tra un momento lo analizzeremo. Now, other causes that are mentioned in the text and as contributing or as being causes for the arising of unpleasant feelings are the following. Allora, le cause che sono indicate nei testi come cause che creano appunto sorgere di sensazioni spiacevoli sono le seguenti. So, they may be caused by by some disorders of the bile, of phlegm, of the wind. Allora, possono essere causati dai dei disturbi della bile, dell'elemento aria and phlegm. E la phlegm. La phlegm si dice? Phlegm is sì, phlegm. Yeah. Okay. I wasn't sure whether yeah. So in case of the wind, let's say you've had some beans or peas for lunch, then after a while they will go or they will produce certain results. Per quanto riguarda l'elemento aria all'interno del corpo, immaginiamo che uno abbia mangiato a pranzo dei fagioli o dei piselli o dei legumi, allora questi faranno il loro lavoro, produrranno determinati risultati. And so they may lead to a lot of gas, and so this gas then may lead to discomfort which is accompanied by an unpleasant feeling. Questi producono gas e questo avviene con un certo stato di disagio che a sua volta può portare a una sensazione spiacevole nel corpo. The change of climate, let's say from very cold to very hot, or from very hot to very cold, or maybe when it rains a lot, etc. Such a change of climate too may contribute to the experience of an unpleasant feeling. Anche il cambiamento di clima, andare da un clima caldo a un clima freddo o viceversa, da un clima freddo a un clima caldo, oppure la presenza di tanta pioggia e via di seguito, anche questo può contribuire al sorgere di sensazioni spiacevoli nel corpo. One has lived in a careless manner, smoking like 2 packs of cigarettes every day, then this will have certain effects, and sooner or later one will be coughing a lot, and this then is accompanied by an unpleasant feeling. Oppure se uno si è un po' trascurato dal punto di vista della salute, per esempio fumando 2 pacchetti di sigarette al giorno, allora questo ovviamente ha delle conseguenze sul fisico, può portare a molta tosse e anche a molte sensazioni spiacevoli. Now, a number of the experiences, unpleasant experiences that arise in the meditation practice, whether they are unpleasant or pleasant, it doesn't matter. A number of these certain experiences are clearly related or caused by the insight, knowledge, the jnana that one happens to be in. Allora, molte delle esperienze che si hanno durante la meditazione, che siano sensazioni spiacevoli o piacevoli, sono collegate con il jnana, cioè con l'insight, con questa esperienza di intuizione profonda in cui uno si trova in quel momento della pratica. And so, to give you an example, there's one particular insight where meditators, you know, pretty much across the board experience plenty of itching sensations. Per esempio, c'è una particolare fase nella pratica quando tutti la maggior parte dei meditatori riferisce di avere esperienze di prurito in tutto il corpo. And so, you know, this itching of course is unpleasant, so it goes along, you know, with an unpleasant feeling. E questo prurito ovviamente non è piacevole, quindi rientra nelle sensazioni spiacevoli. And so such an experience like this itching is independent of certain karmic or actions, past actions performed. Ovviamente questo senso di sensazione di prurito sorge indipendentemente da delle cause karmiche di cose fatte precedentemente. And so, on the positive side, at a certain point in, you know, the practice, a meditator might be experiencing plenty of wholesome mental states like the imperfections of the insight. And this is just the nature of that insight. This is what is, you know, bound to happen. E da un punto di vista, da un lato positivo, ci possono essere, c'è una fase nella pratica meditativa dove un meditatore sperimenta quelle che si chiamano le imperfezioni dell'insight, e questo è ciò che c'è in quel particolare insight. Did you say you have to? No. This is what there is in that particular insight. Right. Now, if a person has maybe, you know, had the tendency to worry a lot over the years, then of course that will show. Se una persona ha avuto la tendenza di preoccuparsi molto nell'arco degli anni, allora ovviamente anche quello verrà fuori. And so this then, you know, may be accompanied with an unpleasant feeling. E questo può essere accompagnato da una sensazione spiacevole. Now, as for unpleasant feelings caused by past deeds. Per quanto riguarda invece le sensazioni spiacevoli causate da azioni passate. These really exist. Questi davvero esistono. Now, to give you an example. Many years ago at the Panditarama Meditation Center in Yangon, there was a foreign meditator practicing under the Venerable Sadhu Pandita. Allora, per farvi un esempio, un po' di anni fa, nel centro di meditazione Panditarama di Yangon, c'era un meditante straniero che stava praticando sotto la guida del Venerabile Pandita. And this meditator, sitting after sitting, would experience a clacking of the teeth happening involuntarily. E questo meditante aveva continuamente durante la seduta un'esperienza di denti che si serravano. The clacking of the teeth, the upper row would hit the lower row. Sì, proprio allora denti che sbattevano. So this clacking of the teeth produced so much noise that the poor meditator was even embarrassed, and he moved into a side room to the meditation hall. E questo sbattere di denti era talmente rumoroso che il meditante si sentiva in imbarazzo e fu costretto a meditare in una sala laterale. Now, since the instruction for the interviewer is always certain to report your most predominant experiences. Well, his most predominant experience was the clacking of the teeth. Come le istruzioni sono che durante il colloquio uno deve riferire l'esperienza predominante, beh, la sua era proprio questo sbattere dei denti. And then, for quite a number of times, interview after interview, this meditator reported about clacking of his teeth. Quindi ripetutamente durante i colloqui questo era quello che riferiva. Now one day the Venerable Sāda Upanita embarked on a set of questions. Allora un giorno il Venerabile Upanita ha cominciato a fargli una serie di domande. And so he gently asked whether he in his life, this meditator's life, whether he had harmed animals in any way. Allora ha cominciato a chiedere a questo meditante se nella sua vita aveva fatto del male a degli animali in qualche modo. And then the meditator said no, no, no. E il meditante gli disse di no. And then Sāda Upanita insisted and asked, well, maybe did you harm any smaller animals? Allora gli ha chiesto, ma forse puoi aver fatto del male a degli animali più piccoli. And then finally yogi remembered that when he was younger he enjoyed fishing. Allora questo meditante si ricordò che quando era più giovane gli piaceva molto pescare. So he would enjoy sitting somewhere along a river or some pond and then trying to catch fish. Quindi gli piaceva sedersi lungo un fiume o un laghetto e pescare. The comment that the Venerable Sāda Upanita then had for this yogi is possibly because of your past deed of catching fish and thus harming life, you end up with this cracking of the teeth. Allora il commento di Upanita è stato che probabilmente a causa di questa tua abitudine passata di pescare, quindi di togliere la vita a un essere, allora come conseguenza c'è stato questo battere dei denti. Now, to then even support his this case, the Venerable Sāda Upanita related of a different story. Allora, per spiegare questo caso, il Venerabile Upanita ha raccontato una storia diversa. And many years earlier there was a police officer who came and meditated under the Venerable at the Mahasi Center, the main center. Allora, un po' di tempo prima c'era stato un poliziotto che era venuto a meditare appunto sotto il Venerabile Upanita nel centro di meditazione principale. And this police officer's main task was to interrogate people who had been picked up. E il compito di questo poliziotto era quello di fare degli interrogatori alle persone che erano state arrestate. And one of his preferred methods of interrogation, if not torture, was to place the person under investigation in a standing position, standing or sitting, I don't know, and then to place a bottle with water on top and in such a way that drops of water one by one would fall onto the person's head. Allora uno dei suoi metodi per interrogare queste persone era una sorta di tortura, cioè lui metteva sopra la loro testa una bottiglia d'acqua che gocciolava, quindi con quest'acqua che scendeva goccia a goccia e finiva proprio sulla loro testa. Loro erano in piedi o seduti. So for a few minutes, never mind, we can all tolerate this, but if we are subject or subjected to this procedure for several hours, then it will have a certain effect on the mind. Quindi per un po' di tempo, qualche minuto, si può sopportare, però se siamo sottoposti a questo trattamento per diverse ore, questo avrà un effetto sulla mente. Now, this police officer, when he undertook intensive practice, one day he reported to the Venerable Sāda Upanita that he was having a feeling of or an experience of as if constantly drops of water were falling onto his own head. Allora, questo poliziotto, quando ha cominciato la sua pratica di meditazione intensiva, ha riferito poi nei colloqui al Venerabile Upandita questa esperienza di avere continuamente delle, come delle gocce che gli cadevano sulla testa. So there seems to be indeed some evidence for such a karmic link here. Quindi pare che ci sia proprio, ci siano delle prove per questo collegamento karmico. Now, in India in the olden days, even up to our present day, there are certain sadhus who subject themselves to all sorts of procedures of self-mortification. Allora, nell'India dei tempi passati, ma anche nei tempi moderni, ci sono dei sayadò che si... dei sadhu che si sottopongono a delle pratiche di mortificazione. So their way of thinking seems to be that one way for making up for past deeds committed in unwholesome deeds committed in the past is to expose themselves to forms of self-mortification and thus then to kind of repay or to atone for their past deeds. Il loro ragionamento è quello di pensare che attraverso questa automortificazione loro possano in qualche modo compensare per delle azioni non salutari che hanno compiuto nel passato o nelle vite passate. Quindi una sorta di, sì, di come si può dire? Sì. Avete capito comunque. Pareggiare i conti, ecco. And so another way of explaining it, this kind of procedures of self-mortification would be as they may be thinking that the person is full of craving, and the craving is seen to be in the body, and by afflicting the body, one then somehow or other can get rid of the craving. Oppure un altro modo per spiegare questa automortificazione è questa, che queste persone riconoscono che c'è del desiderio, della brama, ma considerano questa brama come collegata al corpo, quindi mortificando il corpo pensano di poter eliminare questa spinta della brama, del desiderio. And so what do you think of this? Do we practice this here? Voi cosa ne pensate? Noi pratichiamo questa automortificazione qui? Yes, Gianni. I hope not. So obviously this is not what we're practicing here, and this is also not what the Buddha had in mind. Questo non è quello che pratichiamo qui, non era quello che aveva in mente il Buddha. And this seems to be a rather futile approach, since there is no definite beginning of past existences that one has gone through. So the amount of, let's say, unwholesomeness accumulated is just tremendous. And so one life will not be enough to atone for all of that. Quindi è un approccio un po' futile, perché tutto il karma negativo accumulato da azioni malsane fatte nel passato è talmente enorme che non è sufficiente una vita per arrivare in pari, diciamo, per pareggiare i conti con le azioni fatte. So the Buddha clearly refuted this kind of an approach. Quindi lui ha rifiutato, confutato, diciamo, questo tipo di approccio. No. It seems that among the meditators there are some who hold the view or the belief that maybe they've performed some unwholesome deed in the past, in the present, during this existence, and they feel bad about it, and so only when they've made up for it in through the meditation practice will they be able to realize the Dhamma. Ci sono alcuni meditanti che ritengono che avendo fatto delle azioni non salutari nel passato, in questa vita, solo quando potranno rimediare a questo danno fatto precedentemente, loro potranno poi raggiungere il Dhamma. And so, the answer to this is nonsense. Allora, la risposta a questo è che sono sciocchezze. And so, the experience of enlightenment doesn't depend on having to atone for past deeds. Quindi l'esperienza dell'illuminazione non ha nulla a che vedere con questo come si dice? Atoning. Yes, to make up for. Sì, questo pareggiare. E i conti con azioni errate fatte in passato. Rimediare, ecco, non mi viene la parola. Con rimediare per azioni fatte in passato. So, when it comes to the experience of enlightenment, what counts is the presence, the development and the presence of wisdom and cutting through the ignorance. Quindi quello che conta nell'esperienza dell'illuminazione è questa come dire, il sorgere della saggezza che permette di tagliare attraverso l'ignoranza. And as the point of support for this, even Angulimala, who had killed so many people in his lifetime, being under some wrongful idea, when he met the Buddha, and the Buddha converted him, and he then practiced. He even became an arahant. Quindi questo è dimostrato anche dalla storia di Angulimaya, che pur avendo ucciso tantissime persone nella sua vita perché aveva delle idee errate, quando ha conosciuto il Buddha ed è stato convertito, è diventato poi un arahant. And so in the Anguttara Nikaya there is a passage that describes a conversation between Elder Sariputta and Elder Mahakotita. And this Elder Mahakotita asks a couple of questions, and one is, do we live the holy life in order to atone for past misdeeds? And to this the Buddha, Sariputta clearly says no. Nell'Anguttara Nikaya c'è un sutta in cui è riferito una conversazione tra Sariputta e l'anziano Mahakotita. E questo anziano chiede a Sariputta: ma allora noi seguiamo la via spirituale, la via santa, diciamo, per poter rifarci di azioni malvagie fatte in passato? Questo è lo scopo della via spirituale. And so, Elder Sariputta then in conclusion said that the life under or the holy life is lived under the Buddha in order to gain liberation, to bring about cessation of suffering and so on. E allora Sariputta rispose dicendo che la vita santa sotto il Buddha ha la funzione di arrivare alla liberazione e arrivare alla cessazione della sofferenza e via di seguito. Now, more into the practical aspects. Per entrare un po' negli aspetti più pratici. No, when we come across some unpleasant feeling, and then if mindfulness is not present, this unpleasant feeling can activate or can lead to the arising of irritation or of fear. Allora, quando noi incontriamo una sensazione spiacevole e non è presente la consapevolezza, allora questo può attivare degli stati mentali di irritazione o di paura. And so, this then can lead to an attempt to either repress or avoid those unpleasant feelings. E questo può portare a un tentativo di reprimere o evitare quelle sensazioni spiacevoli. Now, in the face of unpleasant feelings, one may also want to kind of run away from them. Davanti a una sensazione spiacevole, uno potrebbe volere scappare. And so, then one may want to go for sensual gratification. E uno potrebbe andare a ricercare una gratificazione sensoriale. And so, thinking that this is a valid escape from unpleasant feelings. Pensando che questa sia una via di fuga valida dalla sensazione spiacevole. Now, this particular pattern of behavior is common among beginning meditators. Questo è uno schema mentale molto comune tra i praticanti principianti. Now, let's say you're practicing for the first few days and you're coming across plenty of physical pains, and on top of this the hindrances are also there. Allora immaginiamo i primi giorni della pratica, uno sta provando una certa quantità di dolori fisici e in aggiunta ci sono anche i cinque ostacoli presenti. And you're told to restrain the senses, so you're not allowed to look around, and so there's no this there's no way to make up for it. E vi viene detto anche di controllare i sensi, di non guardarvi in giro, quindi non c'è nessun modo per compensare. Then what does a meditator do? Cosa fa a questo punto meditante? Eat as much as he can. There you go. That's it. Seeking gratification in food. Quindi and mangia il più possibile, dice Marco. Esattamente, cerca la gratificazione attraverso il cibo. Or if the same thing would happen at home, well, the famous trip to the fridge. Se questo succedesse a casa, allora c'è il classico viaggio verso il frigo. So, and this is a really deluded behavior. E questo è veramente un comportamento illuso, illusorio. And we think that we can alleviate the unpleasant feeling in this way, but it's actually we're just avoiding it. Noi pensiamo di poter alleviare questa sensazione spiacevole in questo modo, ma quello che stiamo facendo è cercare di evitarla. Now, another common experience or response among meditators in the face of unpleasant feelings is to change one's posture. Un'altra risposta comune dei meditanti rispetto al sorgere di una sensazione spiacevole è quella di cambiare la propria postura. Now, more needs to be said on this. Allora, qui dobbiamo dire qualcosa di più. When we live at home, then let's say we sit on a sofa for a longer period of time, maybe talking to another person or so, and as the conversation is lasting longer, well, maybe some discomfort arises in the buttocks. Allora, quando siamo a casa e siamo seduti su un divano, stiamo facendo una conversazione con qualcuno, dopo un po' di tempo può sorgere un po' di fastidio, per esempio un disturbo ai glutei. And fastidio ai glutei. And right away we'll shift our posture. e automaticamente subito noi cambiamo la nostra posizione. And then after 10 minutes, you know, the same thing may happen all over again. E dopo 10 minuti potrebbe capitare di nuovo la stessa cosa. This is normal human behavior. E questo è un comportamento umano normale. And this, the result of this is that after an hour, one is under the impression of having sat there, you know, continuously without any major discomfort. E il risultato di questo è che dopo, per dire, un'ora, uno ha l'impressione di essere stato seduto lì senza particolare fastidi. And so, the whole thing may be even accompanied by a pleasant feeling. E il tutto può anche essere accompagnato da una sensazione piacevole. Now, when we're on a retreat, you know, the instruction is to sit still, to keep the body posture as still as possible, and to change the posture only in the face of some excruciating pain. Allora, le istruzioni che vengono date durante un ritiro di meditazione sono quelle di stare fermi, cioè di sedersi immobili, e di muoversi solo se sorge un dolore fortissimo. And so it is, you know, when sitting still that all these unpleasant sensations come up, which are accompanied by unpleasant feelings. Ed è proprio questo stare immobili che permette di osservare, cioè è in questa situazione che sorgono tutte le sensazioni spiacevoli, da tutti i dolori che sono accompagnati da queste sensazioni spiacevoli, dolori o fastidi. Right. Now, when we come across an unpleasant feeling in our meditation practice, rather than repressing it or avoiding it, running away from it, we should face it and observe it in a non-reactive way. Quando sorge una sensazione spiacevole nella nostra pratica, noi non dovremmo reprimerla o scappare da essa, piuttosto dovremmo osservarla in un modo non reattivo. And also, we should observe it in a way of not identifying with the object. E oltretutto dovremmo osservarlo in modo tale da non identificarci con l'oggetto. Now, with regard to unpleasant feelings, the Buddha has remarked the following. Allora, riguardo alle sensazioni spiacevoli, il Buddha ha detto le seguenti cose. Now, when one experiences pain, if one does not understand unpleasant feeling, quindi quando uno ha un'esperienza di dolore, se uno non capisce la sensazione spiacevole, the tendency to aversion is present. Allora è presente la tendenza all'avversione. For one not seeing the escape from it. Per uno che non vede la fuga da esso. Okay. So, a person who is not mindful will develop aversion towards an unpleasant feeling. Quindi una persona che non è consapevole, allora praticamente svilupperà avversione verso la sensazione spiacevole. However, a mindful meditator will see an unpleasant feeling as just another object and then will observe it, as we've said, in a non-reactive, non-identifying manner, and then it will sooner or later disappear and no aversion arises. Invece una persona consapevole osserverà questo dolore come un qualsiasi oggetto, non avrà un atteggiamento né reattivo e né di identificazione, e prima o poi se ne andrà e non sorgerà l'avversione. Now, still with regard to unpleasant feelings, the Buddha has given us even further advice. Allora, sempre riguardo alle sensazioni spiacevoli, il Buddha ha dato degli altri consigli. Now, you should train yourself thus even though I am afflicted in body, my mind will be unafflicted. Allora voi dovreste addestrarvi in questo modo: anche se io sono afflitto nel corpo, la mia mente dovrebbe essere non afflitta. Now, this has to be understood in the following way, namely, when some physical pain arises, and this is accompanied by an unpleasant feeling, then this is already one form of suffering. Allora, va compreso in questo modo: quando sorge un dolore fisico, questo è accompagnato da una sensazione spiacevole. Questo è già un primo tipo di sofferenza. Yeah. And if then we're not mindful of this certain bodily pain and the unpleasant feeling, then we will respond to it or react to it with aversion, or with fear, and thus we're adding a second kind of suffering, namely mental suffering. Se non siamo consapevoli al sorgere di questo dolore fisico e della sensazione spiacevole, noi reagiremo con dell'avversione o della paura, e in questo modo noi aggiungeremo un'altra sofferenza a quella iniziale. So, the way to go is, in the case of the experience of a physical pain accompanied by an unpleasant feeling, simply just to observe that beat, or to be mindful of this, and without adding to the suffering, without aversion, without fear. Quindi il modo per l'atteggiamento da tenere al sorgere di un dolore fisico accompagnato da sensazione spiacevole è quello di osservarlo con consapevolezza, senza aggiungere altra sofferenza, senza aggiungere né avversione né paura. Now, that this is possible, the Buddha had shown himself. E questo è possibile, l'ha dimostrato il Buddha stesso. On one occasion, a wound was inflicted to his certain foot, and he was bleeding profusely, and yet he did not respond to the weeping or any of sad or sorrow and the feeling of aversion towards it, but rather he maintained clear comprehension and mindfulness. Allora, in un certo momento è stato ferito a un piede, stava sanguinando abbondantemente, ma lui non reagì né piangendo o né provando avversione, né lamentandosi, ma semplicemente osservandolo con consapevolezza e con chiara visione, chiara comprensione. Yeah, and observing it in an unperturbed manner. E l'ha osservato in un modo imperturbabile. Yeah. Now, the Venerable Mahasisado has some useful hints for dealing with unpleasant feelings. Namely, he points out, and this is obvious, that unpleasant feelings, dukkha vedana, in essence, are also impermanent, they are anicca. Allora, anche il venerabile Mahasisayado ha dei consigli da dare rispetto a queste sensazioni spiacevoli, e cioè che questi dukkha vedana sono anch'essi impermanenti, contengono quindi anicca. And thus, even if a terribly unpleasant feeling has arisen in your meditation practice, you can know already beforehand that this is not going to be around forever, which makes it then easier to deal with it. Quindi voi sapete che quando sorge un qualsiasi dolore fisico nel corpo, prima o poi se ne andrà, e questo rende molto più facile il sopportarlo, l'affrontarlo. Mm. Now, from a practical point of view, when dealing with unpleasant feelings, there is a tendency for the ego to come back. Allora, da un punto di vista pratico, quando sorge una sensazione spiacevole, c'è la tendenza a un ritorno dell'ego. Now, when asking, you know, beginning meditators who've, let's say, practiced 4 or 5 satna days about physical phenomena and mental phenomena, well, the question comes, observing a pain, how did you relate satna to pain? And so did you relate to it as my pain or just as a process? Many say, well, at times certainly it was seen as a process, but as soon as the pain got stronger, then it was seen again as my pain. Allora, quando si chiede a un meditante che ha appena cominciato, dopo 4-5 giorni di pratica, viene colloqui, si fa la classica domanda se un fenomeno è mentale o è fisico, nel riportare l'esperienza del dolore viene chiesto: ma questo dolore è stato visto come un processo oppure l'hai visto come il mio dolore? Allora, la risposta classica è che inizialmente si riusciva a osservare come processo, ma man mano che diventava più forte veniva considerato come il mio dolore. So, and when it happens like this, then we have to be aware of this. Quando capita così dobbiamo esserne consapevoli. And so then we need to realize, you know, that this is actually a deluded way of dealing with the pain. E bisogna capire che questo è un modo illusorio di trattare con il dolore, trattare il dolore. Yeah, because in the end, you know, the pain, we're not owning the pain, and you know, the pain is not making up this the self, but it's just an object. It's one another out of many objects, and it's lacking a self. Quindi dunque il dolore non è it's not, sorry, did you say pain is not making the self? It's not making the self. Però non è il dolore che crea il sé, è semplicemente un altro oggetto da osservare. It's just an object. Yeah, right. And then you added something else. It's just an object, and what else did I say? Ho perso l'ultima parte. So to see that clearly. To see clearly, or it's deluded. If one sees like this, one is deluded. In the end, pain is of course lacking itself. Ecco, quindi se uno invece vede il sé nel dolore è illuso, perché il dolore in realtà è privo di un sé. Now, when a physical pain arises, and so, or some other sensation, and it's accompanied by an unpleasant feeling, and then we should not just pack our things and run away, but rather take this as an opportunity to learn something from this pain. Quindi quando sorge un dolore, una sensazione spiacevole, non dovremmo cercare di scappare, ma piuttosto di coglierla come di prenderla come un'occasione per imparare qualcosa. And the venerable Sariputta says that more important than getting rid of the pain and then the accompanying unpleasant feeling is to know its nature. And once you know the nature of an object, then it will dissolve sooner or later. Allora, Venerabile Pandita diceva che piuttosto che liberarsi di un dolore, o più importante che liberarsi di un dolore, è il conoscerne la natura, perché una volta che si conosce la natura di questo oggetto, allora se ne può poi liberare, se ne andrà, si dissolverà. And so, a pain accompanied by an unpleasant feeling is usually a wonderful opportunity to develop concentration, and also a wonderful opportunity to develop some wisdom. E quindi l'osservazione di un dolore con la sensazione spiacevole è una grande opportunità per sviluppare la concentrazione e anche la saggezza. Now, of course, there have to be a certain, or we need to respect certain limits. Ovviamente occorre rispettare determinati limiti. So if the pain becomes unbearable, excruciating, then of course we can change the posture. Se un dolore diventa insopportabile o lancinante, ovviamente possiamo cambiare la postura. So maybe this much regarding the unpleasant feelings, dukkha vedana. Now a few remarks on adukkha masukha vedana, namely neither unpleasant nor pleasant feelings, so neutral feelings. Allora adesso passiamo a trattare invece le sensazioni neutre, cioè adukkha vedana e asukkha vedana. No, adukkha masukkha. Adukkha masukkha. Now, the definition for this neutral feeling is given by the Buddha as follows in Majjhima Nikaya, volume 1, section 303. Allora, nel Majjhima Nikaya, sezione 1, section 1, 306, quindi 303, viene data questa definizione della sensazione neutra. Whatever is felt bodily or mentally as neither soothing nor hurting is neither painful nor pleasant feeling. Allora, qualunque cosa che venga esperita, diciamo, in maniera né whatever is felt bodily or mentally as neither soothing nor hurting. Quindi qualunque cosa che venga esperita sia dal corpo che dalla mente e che sia né si può dire, appagante, soothing, che faccia piacere, diciamo, e né che faccia del male, allora questo è considerato una sensazione né piacevole né spiacevole. No. As explained already, I think it was yesterday or at some other occasion, neutral feelings are somewhat, at least at first, difficult to identify. Allora, come abbiamo già detto, queste sensazioni neutre sono a volte difficili da identificare. And the Patthisambhida Magga, volume 1, section 277, apparently gives the example of a hunter. Allora, il Patthisambhida Magga, okay, c'è tutta la referenza, il riferimento, allora dà o propone l'esempio di un cacciatore. So, a hunter who is following the track of some wild animal, and the hunter sees the track on the ground, and then comes a rock. He no longer sees the track, and then past the rock he sees the track again. So he assumes that in between the animal, the wild animal, crossed the rock. Allora, questo cacciatore sta inseguendo un animale selvaggio e sta seguendo le tracce di questo animale. A un certo punto le tracce finiscono, c'è una pietra e poi le tracce riprendono. Allora, il cacciatore suppone che questo animale selvaggio abbia attraversato questa pietra, anche se non ne vede le tracce. So, likewise, when we realize in our meditation practice that a certain experience is, or a certain object is accompanied neither by an unpleasant feeling nor accompanied by a pleasant feeling, and then what remains is only a neutral feeling. Allora, nella nostra pratica, quando ci rendiamo conto che una sensazione non è accompagnata né da una sensazione piacevole né da una spiacevole, allora possiamo supporre che siamo in presenza di una sensazione neutra. Now, already yesterday it was said that a neutral feeling, if one is not mindful of it, has a latent tendency to lead to the arising of ignorance. Allora, già ieri abbiamo detto che se uno non è consapevole del sorgere della sensazione neutra, questo può portare all'ignoranza. So, when a neutral feeling is or arises, and because it's so difficult to grasp, then one is not aware of its arising. And when it disappears, one is also not aware of its disappearance. Allora, poiché è così difficile da identificare, allora una sensazione spiacevole quando sorge non si vede il momento in cui sorge, così come è difficile da vedere il momento in cui sparisce. And likewise, when a neutral feeling is present, one may not be aware of its advantage, disadvantage, and its escape. And as a result of this, in all five cases, ignorance arises. In all five. The previous two plus this. E quindi, allo stesso modo, uno non è consapevole dei vantaggi e degli svantaggi. Advantages, disadvantages, and escape. E non è neanche consapevole dei modi per scappare da esso, e quindi tutti e cinque queste situazioni, in all five of these cases, ignorance. E tutte e cinque queste situazioni possono dare, far sorgere l'ignoranza praticamente. No, an interesting point that. Does not get mentioned very often is the following, and this is based on Venerable Analayo's book Satipatthana. Allora, una considerazione importante è la seguente, viene data nel libro Satipatthana del Venerabile Analayo. Yes, and so, from an Abhidhamma point of view, unpleasant a pleasant or unpleasant feeling arises only in connection with the sense of touch. Allora, dal punto di vista dell'Abhidhamma, una sensazione piacevole o spiacevole sorge solo in presenza del senso del tatto, quindi con un contatto fisico. Whereas in the case of the sense of seeing, hearing, smelling and tasting, a neutral feeling is or this is accompanied by a neutral feeling. Invece nel caso degli altri sensi, cioè della vista, dell'udito, dell'olfatto, del gusto, also did you say taste? Yes, taste. Allora questi invece sono accompagnati da una sensazione neutra. However, from a suttanta point of view, this is different. Invece dal punto di vista del suttanta questo è diverso. And the Buddha speaks of an unpleasant or unpleasant feeling accompanied or in the context of the seeing process, hearing process, smelling, tasting, touching and thinking process. E il Buddha parla di sensazioni piacevoli o spiacevoli anche in relazione a tutti i sensi. Now, when it comes to neutral feelings, when they do arise in the meditation practice, they tend to last for a somewhat longer period of time. Quando sorgono queste sensazioni neutrali nella pratica, sembra che durino per un periodo più lungo. And so, that being the case, one has to be careful not to fall into this trap and not to take them to be permanent when in fact they of course are impermanent. Uno non deve cadere nella trappola di ritenerli permanenti quando in realtà sono impermanenti. Now, in the Itivuttaka, verse 53, we have the following. Pleasant feeling should be seen as suffering because it is unstable and liable to change. What feelings? Unpleasant? Pleasant. Allora, nel Itivuttaka, verso 53, si dice che le sensazioni piacevoli vanno considerate suffering come sofferenza perché sono instabili. Yes, unstable and liable to change. E sono soggette al cambiamento. And then painful feeling should be seen as a dart, as explained earlier on, because if one is not mindful, a mental negative reaction may add to the suffering. A dart. Yes. Una freccia. Quindi le sensazioni spiacevoli sono paragonate a una freccia, perché se uno non è consapevole, la sensazione spiacevole può portare anche ad un'altra sofferenza, quella mentale. And as explained a few moments ago, the neither unpleasant nor pleasant feeling should be seen as impermanent. E come detto precedentemente, la sensazione né piacevole né spiacevole va vista come impermanente. Now, a last but interesting point. When it comes to the neutral feelings, these tend to arise, there's a certain development, a certain evolution that is taking place in the course of the practice. Quando sorgono queste sensazioni neutre, queste sono indicative di un certo sviluppo nella pratica, cioè di una fase particolare nella pratica. Now, and for this we need to distinguish between ordinary neutral feelings and neutral feelings that arise out of wisdom. E qui dobbiamo distinguere tra le sensazioni neutre ordinarie e le sensazioni neutre che sorgono basate sulla saggezza o collegate alla saggezza. Now, if you have one object that is highly attractive, then it will arouse a pleasant feeling. Quindi se avete un oggetto che è molto attraente, allora questo farà sorgere una sensazione piacevole. Now, if you, on the other hand, if you have an object, it can be anything, it can be a person, it could be a house or whatnot, that is highly unattractive, then it will lead to the arising of an unpleasant feeling. Se c'è un oggetto invece non attraente, può essere una persona, una casa, qualsiasi cosa, questo farà sorgere una sensazione spiacevole. But if the object is somewhat bland in nature, so neither very attractive nor highly unattractive, then the object is somewhere in between, and as a result of this, a bland, neutral feeling will arise. Ma se questo oggetto non è né particolarmente attraente né attraente, ed è un oggetto un po' blando, allora ci sarà questa sensazione neutra, cioè blanda. So, this neutral feeling arises because of the blandness of the object itself. Quindi questa sensazione neutra sorge dal fatto stesso, dal fatto che l'oggetto stesso ha la qualità di essere blando. Now, different from this is the case of a neutral feeling that arises out of wisdom. Invece è diverso il caso di una sensazione neutra che sorge dalla saggezza. To give you an example, in the fourth insight knowledge among the imperfections of insight. Nel quarto insight, all'interno delle 10 imperfezioni dell'insight, we have first sukha arising, so prima, which is a pleasant feeling. Prima sorge sukha, che è una sensazione piacevole, which is termed then as happiness, che abbiamo descritto come felicità. And then as our practice develops further, we go beyond the happiness, some other imperfections will come, and eventually, when the mind is somewhat or has somewhat matured, equanimity arises. And at that point, it will be accompanied by, or objects will be accompanied by a neutral feeling. Poi ci saranno altri tipi di esperienze successive, fino a quando la pratica matura ulteriormente e si arriva all'equanimità, e questa equanimità farà sì che gli oggetti vengano visti con questa sorta di neutralità, questa sensazione neutra. Right. Now, in the 11th insight knowledge we find a similar process. E anche nell'undicesima conoscenza dell'insight abbiamo un processo simile. After a meditator has seen objects, and in particular the feelings, as impermanent, as unsatisfactory, and as lacking a self. So anicca, in the light of anicca, dukkha, and anatta, many times. The mind kind of distances or detaches itself from these feelings. Allora, quando si osservano gli oggetti nella loro caratteristiche di impermanenza, insoddisfazione, non sé, quindi anicca, dukkha, anatta, ripetutamente, per molte volte, allora la mente prende le distanze dall'oggetto. And then it becomes somewhat, as you mentioned yesterday, cooled, and it no longer reacts with a pleasant or unpleasant feeling. Quindi, or responds. In qualche modo diventa rinfrescata e non risponde più ad una sensazione piacevole o spiacevole. And so, thus the neutral feeling is there. E quindi è presente la sensazione neutra. And another way of explaining this, and it's also happening in the practice, is when a meditator has clearly seen this frequent going from pleasant feeling, unpleasant, unpleasant, and so on, many times, the mind sooner or later gets the point that this is rather unsatisfactory, and it settles for the neutral feeling. E un'altra esperienza che si può avere nella pratica è che quando si va ripetutamente dalla sensazione piacevole, spiacevole, piacevole, spiacevole, allora uno capisce la natura insoddisfacente di questa esperienza e allora la mente si stabilizza sulla sensazione neutra. Voilà, and so, this is it. Now let me conclude today's Dhamma talk by wishing that may this today's discourse and yesterday's discourse on Vedana Nupassana Satipatthana may inspire you to take a new look at certain feelings, pleasant, unpleasant, and neutral feelings, and may it help you to discover many new things, and thus gain much wisdom, and eventually may it lead to the realization of full liberation. Che possano questi due discorsi di ieri e di oggi su Vedana Nupassana Satipatthana permettervi di vedere le cose sotto un'altra prospettiva, vedere le sensazioni sotto un'altra prospettiva, le sensazioni piacevoli, spiacevoli e neutre, e che possa questo aiutarvi a conoscerle meglio, a avere una maggiore saggezza e successivamente a raggiungere il Nibbana. Okay. Do you have any questions, comments, suggestions? Commenti, consigli? Yes, Michael. I'm asking myself if it is at all possible to experience mental feelings directly without the body sensations these mental feelings cause. Then, no, in the case of some mental state that arises, mm-hmm. no, and that mental state will be accompanied by mental feeling. Mm-hmm. So in the case of strong aversion, there will be under normal circumstances, it will be accompanied by an unpleasant feeling. Mm-hmm. But a bodily feeling. I mean. Oh, for a bodily, so you have some bodily sensation like a pain, no, and this information will be transmitted to the mind, no, and so then this will be accompanied by an unpleasant feeling. Non so se ho capito bene la domanda. I'm not sure I understood the question. So are you saying if it's possible to experience mental feelings or mental processes directly without the body, without feeling without feeling the bodily phenomena these mental processes cause? Mm. Understand? Yeah. So I'll translate the question first. Allora, Michael chiede se praticamente c'è un collega, se si può fare esperienza della sensazione a livello mentale senza necessariamente il collegamento con la sensazione fisica. Sì. È così. Ah, ma tu fai l'italiano, spiegalo tu. This question arises also from an experience I made many times when I'm asking myself how is my mind feeling. What's my mind now feeling? Then I always come to some bodily sensations, and these I have to interpret to get to the content of the mind process. No? So I don't quite know if it's possible just to experience a mind phenomenon without my. See, if I had no body. Vuoi che lo dica io? Cioè, parla di una sua esperienza personale, per cui quando lui cerca di capire quello che è una sensazione mentale, automaticamente è come se ci fosse un riflesso sul corpo. Quindi Michael si chiede se è possibile capire questa sensazione mentale senza un riferimento fisico. Questo è giusto? Questo è giusto? No. No, so, at least from a theoretical point of view, it must be possible. Because feeling itself is a mental state. No, it's a mental state, and so, you know, thus it should be coming up in the mind. And so it's just a matter of tuning into this and catching or developing the skill of knowing a feeling as a feeling. Quindi dal punto di vista teorico dovrebbe essere possibile, perché la sensazione è una, un fenomeno mentale, quindi si tratta semplicemente di sintonizzarsi in modo tale, affinare l'attenzione in modo tale da poterlo vedere direttamente e comprendere nell'immediatezza. And indeed, Hort, a number of the mental states. Well, they manifest in the mind for one thing, but they also manifest in the body. No, and tranquility would be a good case for this. So you have the mental aspect of tranquility, so the mind which is very quiet, calm, not shaken and whatnot. Or sorry, shaking is not the right word. Not moving, and then. You have the physical manifestations of this. The body is totally calm, and this maybe for a longer period of time. Spesso uno stato mentale si riflette sullo stato fisico del corpo. È un buon esempio è lo stato mentale della tranquillità. Quando c'è tranquillità nella mente, la mente è molto ferma, molto immobile, e spesso questo è accompagnato anche da un corpo molto fermo e immobile. It's a matter of focusing one's attention, and the mind can, or one's attention can be focused on a physical object, but it can also be focused on a mental object, or exclusively on some mental object, such as a feeling. Si tratta di focalizzare, di come si focalizza la mente si può focalizzare su un fenomeno fisico oppure su un fenomeno puramente mentale, e quindi per esempio focalizzare su una sensazione mentale. So in conclusion I would say this is a matter of training the mind. Quindi è questione di addestrare la mente. Ok, what else? Yes, Amico in the back. A neutral feeling in the meditation that lasts longer, and also because you say that neutral feelings lead to ignorance, but only to the ignorance that they are there forever, or the aspect of ignorance is not clear to me. So you're asking for two things. Nico chiede se può dare un esempio di una sensazione spiacevole nella pratica che dura per un certo periodo, e poi il collegamento tra la sensazione neutra e l'ignoranza, perché la sensazione neutra porta poi all'ignoranza, giusto? Sì, l'ignoranza, con che tipo di ignoranza? Sì. So, you know, the answer to your first question is, in that fourth inside knowledge, when equanimity is there, neutral neutral feeling might last for a longer longer period of time. Let's say it might last for as long as the equanimity is there, and same thing may happen in the 11th inside knowledge. Quindi per rispondere alla prima domanda, sia nel quarto insight che nell'undicesimo, quando è presente l'equanimità, allora questa esperienza di equanimità è associata a una sensazione neutra e questo può durare per un certo periodo. And then in your practice, when for a while there are no really predominant objects, then again that neutral feeling would be there. E inoltre, quando nella pratica non ci sono molti oggetti predominanti, o attraenti, oppure estremamente non attraenti, allora in quel momento è presente la sensazione neutra. Now, as for the second part of your question, the ignorance, how does ignorance arise with regard to neutral feeling? And see, since the neutral feeling is somewhat difficult to grasp, this being the case, you might not see it when it arises. Allora, per quanto riguarda il collegamento tra il sorgere dell'ignoranza dalla sensazione neutra, allora, siccome questa sensazione neutra è molto difficile da afferrare, allora uno potrebbe non vedere quando nasce, quando sorge. And so the neutral feeling is there, is arising, so the object is there, but the mind is not knowing the nature of the object, and hence this we call ignorance. Quindi c'è la sensazione neutra e viene riconosciuta, però non viene conosciuta nella sua natura, e quindi noi questa la chiamiamo ignoranza. And it's the same thing when the neutral feeling is present, again the observing mind is not knowing anything about this neutral feeling, and the same thing when the neutral feeling is disappearing, so there's no knowledge aspect there. E lo stesso vale per quando la sensazione neutra è presente, poi quando se ne va, quando sparisce, la mente non riesce a cogliere la natura di questo oggetto e quindi non c'è conoscenza, e quando non c'è conoscenza questo è uno stato di ignoranza, non c'è l'aspetto del conoscere. And the disadvantage of the neutral, or not knowing the disadvantage of the neutral feeling, is not seeing that it might be wrongly seen as permanent. Quindi lo svantaggio di questo questa non conoscenza, fatto di non vederlo come impermanente o vederlo come permanente. And the advantage of it is not seeing its peaceful character. This is the and the neutral feeling. This is the advantage. Yes. The advantage is of not seeing Quindi il vantaggio invece è quello di vedere il carattere pacifico, di pacificazione, di pace, di tranquillità. And the ignorance is not seeing that. E quindi l'aspetto di ignoranza invece è non vedere questo aspetto, non vedere la caratteristica pacificante della sensazione neutra. And in the case of the escape from the neutral feeling, not understanding that we need to just be mindful of it, and then eventually we might reach cessation of formations. Invece per quanto riguarda la fuga dalla sensazione, l'ignoranza è il non capire che semplicemente osservandola con consapevolezza noi potremo raggiungere poi la cessazione delle formazioni. So with regard to an other object like maybe pleasant feeling or unpleasant feeling, you have no problems with these points, no? But with a neutral feeling, since it is somewhat more difficult to grasp, ignorance arises. Perché con le sensazioni piacevoli o spiacevoli di solito non ci sono problemi. Invece con quelle neutre, essendo così difficili da afferrare, allora è più facile che sorga l'ignoranza. Does this answer your question? More or less. The problem I have with the object seen with equanimity is that it seems to me that it's perceived as rather pleasant. You see? Which object? The neutral feeling. The 2 points in the practice, there is equanimity. And in equanimity, one sees the objects with a neutral feeling. Right. Right? And it seems to me that this itself is rather pleasant, and there can be also a tendency to attach oneself to it. So if you can attach yourself to it, it means that it's pleasant and not really neutral. You see? Well, no, I'm not following you. The neutral feeling itself is regarded as a pleasant, or the object. Well, the fact to see with the objects with neutrality seems to me rather on the pleasant side in the experience of equanimity. Oh well, no. Then your equanimity needs to mature some more until you see neutral feeling as neutral feeling. L'osservazione di Anico era che comunque il fatto di vedere le sensazioni neutre, il collegamento con l'equanimità, sembra più andare verso una sensazione piacevole. Giusto? Venerabile dice, allora va, come dire, approfondita la pratica per vedere le sensazioni neutre come semplicemente sensazioni neutre, senza questa sfumatura piacevole. I'm getting your point, Aniko. After a while, one does realize that seeing objects or relating to objects with the neutral feelings, after all, is not that bad. Effettivamente, uno che ripetutamente vede gli oggetti con una sensazione neutra, effettivamente si accorge che non è poi così male. It's a relief. Yes. È una sorta di sollievo. Okay, maybe let's leave it with this.